questo canale oggi, sì o no? E allora, da diritto, come va, canti? Daniele, Eugenio, Ora, ora, mi senti? Attenzione, doppio room, ci sei? Chi è, va? Chi è? Tu, profeta, buonasera, ben sentito? Ciao, ciao. Signora. Come mai hai fatto il mio nome subito? Sei andato a colpo sicuro? No, ho acceso poco fa, mi è sembrato di sentire... Mi è sembrato di sentire la tua voce e quindi, siccome stavo finendo di fare, cioè, stavo facendo un'operazione al computer, non sono entrato immediatamente. Ah, ho capito. No, io sono entrato a vedere se c'era gente, perché anche ieri mi hanno detto che sono entrati da presto, ma non c'era nessuno. E stavo un po' smanettando col telefono, dai. Mi sa che c'è qualcuno sul 20, ma non so chi sia. Sul 20? Sarà il 20, è il canale vintage, praticamente dove modulano con gli apparecchi anni 80, 70, eccetera, eccetera. Ah, ok. Allora dovremmo modulare tutti lì. Io passiamo a vedere, là. K. Attenzione, binario 10, ascoltate il doppio room che chiama, cambio. Io. Tutti zitti, tutti grumiti, so. Silenzio, silenzio, magari si riesce da qualcuno con la luna di traverso. E magari adesso di colpo, boom, ti assolta. Sentivo un fischio basso basso. No, io no, non ho sentito nulla. Magari dalle parti di casa tua con qualche portatile. Proprio insieme al QRM, mio, ho sentito un paio di fischi prima che entrassi tu. Ah, prima? No, io facevo adesso. Cava. Ancora la ciurmaglia del 10 è assente. Boh. Oggi verso l'ora di pranzo ho beccato, insomma, verso stamattina, tarda mattinata, Franco da Sosso e Tino che stavo sperimentando. Ciurma, questo si dice, sveglia, tutti a rapporto da me. Qualcuno ti ha sovramodulato? Ci ha provato. Avanti. Io vedo che da voi non fa vita, ragazzi. E chi siete a segreto? CB mascherati, dai. Vabbè. Se CB si possono chiamare persone che fanno queste cose. Appunto. CB. E allora? Che te mi conta, sa? Sempre col telefono in mezzo ai piedi, là. Io adesso le regalo una mia sorella perché mi si è barrato. Io ho un S3 che è nuovo. Adesso però non mi ricordo quando gli avevo messo il codice e non mi ricordo come sbloccarlo, ma resettandolo poi si può togliere anche il codice, vero? Sì, ci sono dei tipi di reset, c'è un reset leggero e un reset quello pesante chiaramente ti cancella tutto. Vabbè, quello non è un problema, poi si reinstalla, non ci sono problemi per quello. Sì, se vuoi fare un reset totale, perché magari lo devi dare a qualcuno e devi togliere tutto, già si può fare, sì. Sì, lo devo dare a mia sorella, perché questo telefono che c'ha, quando li telefoni praticamente annulla la telefonata senza che lo faccia lì, capito? Automaticamente annulla tutte le telefonate, il telefono, le amiche, tutto quanto, niente da fare. E non si decide a comprarsi, te lo regalo io, no? Guarda, ce l'ho da parte e te lo regalo. È nuovo. Guarda, c'è una funzione, per esempio, nei Samsung, che praticamente se viene abilitata in maniera involontaria, praticamente non ti fa sentire nessuna telefonata. quindi bisognerebbe entrare nel menu delle opzioni praticamente e sbloccare questa cosa, se no non ti fa ricevere niente. È allucinante, va. E io c'ho un Samsung, c'ho un S3, diciamo non è degli ultimi, però è nuovo, non c'ha un graffio, perché io ritenevo bene, c'avevo la custodia e tutto quanto, quindi è rimasto il vetro proprio senza un graffietto, senza nulla. Sì, ho capito. Sento uno basso sotto. Yeah, avanti. Lo senti già? Cosa? Li senti in sottofondo? No, negativo. Sono vicino a te sicuramente. Li sento bassi parlare in mezzo al QRM. Sono lontani da me. Li sento bassi in mezzo al QRM. Magari gente che sulla 131 e tu ce l'hai libera in quella zona, capito? Eia. Ti stavo dicendo, quindi siccome ce l'ho anch'io un Samsung, non è recentissimo, come muletto, ho avuto praticamente lo stesso problema. Praticamente mi chiamavano da casa e cadeva subito, cioè non si riusciva a comunicare. Però dopo qualche minuto mi arrivava il messaggio della chiamata. Però la chiamata in arrivo non la sentivo mai. Per cui poi alla fine ho scoperto che c'era praticamente un blocco praticamente abilitato, non so da chi, comunque sono riuscito praticamente a levare questo blocco e il telefono ha funzionato normalmente. Sì, vabbè. Lo so, sono telefoni particolari adesso. No, io ho preso Huawei, va benissimo, P10. Va molto bene, sia come fotografia, sia come telefono, sia come tutto. Inizia già a essere un bel apparecchietto, non è da smarco, diciamo, inizia a essere già un bel prodotto. E tu pensa che quando me l'hanno nominato io Huawei non lo conoscevo proprio nulla. Io andavo molto su Nokia, che secondo me sono stati sempre i telefoni migliori. In Nokia non ce n'è, erano number one. Sì, poi praticamente c'è stato un mezzo casino. Mezzo casino, diciamo che non si sono voluti lanciare perché alcune cose le aveva brevettate prima la Nokia che la Apple, capito? Ma infatti. Adesso tutti questi grandi colossi, Samsung, Huawei, insomma tutta questa gente qua, sono avanti anni luce. Mi aspetto 5 minuti perché devo fare una telefonata urgente, ma urgente barone, e poi magari entro dopo più tardi, dai, ci sentiamo per il momento, dai. Devo fare questa telefonata, non so quanto dura. Ok, ci sentiamo dopo magari, profe. Aspetta Gianni. Avanti. Scusate, Gianni Brofetta, Gianni Doppio Zoom. Un controllo radio, per favore. A parte il casino di casa. Doppio Zoom. Ehi, non si comprende nulla, non è chiara la radio. Chi sei, Tino? Sta amplificata, è a basso, aspetta un attimino, guarda. C'è un po' di casino a casa, eh. Abbassa ancora, abbassa. Guarda, 1, 2, 3, prova. E adesso è più chiara. Prima era troppo forte, non si capiva nulla. Mi immagino già, Guarda a vedere così, com'è. Ma così è chiara, Tiara. Che tipo di microfono stai usando? È il più 4. Il più 4 però sto facendo degli abbinamenti. Dammi un controllo del segnale, se puoi. Cosa hai detto? Mi hai chiesto il segnale? Scusa un attimino. Stavo allontanando perché devo fare un telefono d'urgente, dai, sei veloce. Guarda, ora. E se non vedo te la radio 5, dai, guarda. Vabbè, già va bene, la radio va bene, la lascio così, troppo amplificata. E anche appena l'avrei abbassata, perché sai cosa succede? Che rimane un po' gracchiante quando è troppo forte. Abbasso già, non c'è problema. Vabbè, guarda se va bene così. E fa un passaggio lungo. Ma mezz'ora che parlo, guarda. 1, 2, 3, trova. Ora, ora. A me continua a non piacermi molto, sinceramente. Prova a passare ancora. Guarda, 1, 2, 3, trova. L'ho passato ulteriormente. Se vuoi abbasso ancora di più. Ascolta, ma gli è toccato la potenza per caso? La potenza è aiutato adesso, eh. Allora ve lo devi dire, perché la radio forse non è molto chiara perché si è attaccato. Risultava un po' satura, leggermente Viti, non tanto, però appena appena si sente di saturazione. Prova a staccare e a lasciarla libera la radio. Ecco, così è attaccata, eh? Vedi un po'? E così è diverso, vedi? Come è attaccato? Cosa stai usando come amplificatore? Un 747, ma lo sto usando con Lincoln e quindi devo valutare un pochino, riesce a vedere quante batterie trovo all'ingresso. Sì, anche 5, però lo posso abbassare, aspetta, la passo a 2, guarda un po' sopra tanto e non so se si tiene. Adesso è migliorato notevolmente. Ma comunque è strano, perché quello tiene da 5 a 10 watt. Sono due watt prima per dire. Ora, adesso faccio per dire da 5 a... Aspetta, che scala sono? 5, no, da scala 50. Allora, questo fa da... Ora, ora. Certo, quasi 100. E adesso sei chiaro, che strano. Però guarda, nelle... Aspetta che aumento un pochino, metto 5 watt. Ora. Quasi bu. Sta aumentando la maestra. Sì, si sente un po'. Non dico che sia tantissimo, ma un po' di saturazione, di compressione più che saturazione. Compressa. Vabbè dai, vi lascio che devo fare questa telefonata, ci sentiamo dopo. Ciao, ciao. Ciao già, ciao. Tu profe. Eia, dimmi tutto. Aspetta che avete parlato in due. Hola. Aspetta, se non metto la porta antifissa, allora. 5 watt, ora. 50 watt fa la. Ora. Sì, col fischio arriva anche a 120, addirittura. Col fischio sempre, allora. Vai, vai. Sì, va in compressione, in saturazione. L'altra invece la collego nell'altra ed è diluso. Non mi è arrivato. Gianni, lo profeta. Ehi, vai, sento qualcuno nel sottofondo e poi mentre stai parlando l'ultimo passaggio qualcuno ti ha sovramodulato. Si possono mettere con me che sono un piccolo basso e nero. Vabbè, mi stavi dicendo, scusami. No, volevo sapere solo se andava bene di radio, ma non va bene abbinarlo con questa radio, ho capito, dai. Buttaci tutto. Buttaci tutto e poi raccolgo io. No, non va bene con questa radio. Cambio radio. Buonasera. Aspetta, ti ho messo la prima di... Aumentiamo un pochino, bene va così la radio. Lascia così, ti, buonasera, ciao Gianni. Ciao Daniele, sì, anch'io concordo, lascia voi. Ciao Daniele, sì, no vabbè, ho attaccato l'amplificatore, ma va bene qua in questa radio. Oh, già andava bene anche prima, Confronto... ai precedenti, i primissimi passaggi facevi tutti i giorni scorsi. Ero il telefono, no vabbè, sto provando un altro apparato che un altro con un CTS 347, ma non è compatibile con questo radio. Devo mettere l'altro, Gaba. Già va bene. Anche io sento gente in lontananza, lì già. Si sentono delle vocine pio pio. È non so chi sia. Beh sì, sono in mezzo al QRM, non riesco a capire. Spero che siano in lontananza, che si stanno allontanando, non sono in avvicinamento, siete un casino. Vabbè, già non è un problema. Va, già colpi sto prendendo io. Cavolo, entro io e inizio a prendere i colpi. Da chi? Non lo so, non vorrei, ma è Ettino che si è spostato, sta facendo delle prove. Per un secondo questo si è ammutolito. Cazzarola, proprio così, di brutto. Sì, quando prende i colpi questo si ammutolisce. A mezzo punto. Scusa, mi sto sgranchiando un paio di biscotti. Si sente. Ci vuole. Gaba, un po' di zuccheri già ci vogliono. Almeno per il buon umore, dai. Così dicono. Stavo andando a buttarci la buccia, ragazzi. C'era doppio rum, però si è spostato che doveva fare roba. L'ho sentito. Perché questo è sempre acceso, io sento tutto. Faccio orecchie di porco. Il grande fratello, ragazzi. Le grandi orecchie del grande fratello. Ecco qua, chi è che voleva fare lo stupido sopravvolando? No, scusa, sono entrato io perché stavo parlando con Daniele. No, sto scherzando, no, stavo utilizzando un'altra radio che devo fare dalle prove. Adesso ricambio per vedere se c'è cambiato ambulazione. Ma ti eri spostato su un altro canale, T? Sì, un pochino, sul 20, perché? E le stavo prendendo colpi. Addirittura? E come mai? Non lo faccio mai. Questo basta appena che si ammutolisce. Sì, ho capito. Vabbè, cambio radio un attimino. Cosa, T? Allora, non so, allora. Ora. Guarda se va bene. Se va bene la radio ora. Dove ho Daniele, non so, chi c'è? Per me va bene così, T. Ma la corposa. Poi non lo so. Per le mie orecchie e la cassa di questa radio va bene. Poi non lo so, senti a Gianni. Vai, T. Guarda già, se ha cambiato qualcosa, dai. Vorrei mettere su com'era, perché effettivamente quell'amplificatorino piccolino non è compatibile con questa radio qua, ma è la radio in sé che non va bene. Ma già ho l'altra da attaccare, non c'è problema. Guarda, adesso è ottima e abbondante, va benissimo, è pulita, mentre poco fa, cazzo, era veramente... non si poteva sentire. Ma non si poteva sentire perché era in saturazione, perché gracchiava, forse voleva abbassata l'amplificazione, non so. Sì, vabbè, quando sei entrato che hai chiesto i controlli a Gianni, che eri tutto saturo, tutto compresso, parlavo di quel momento lì, capito? Allora, la radio può essere sì, perché non conoscevo il vato di entrata di questa qua, ma questa adesso diciamo che fa credo da 4 a 10 watt, non di più, quindi sicuramente è quella, dovrei abbassare il watt dall'interno, ma non me ne frega proprio niente, attacca l'amplificatore qua, quindi la lascio così che va bene. Bene, Meda, avanti Daniele. E poi invece in questa ha cambiato qualcosa, dai. Fai un passaggio, T, scusami, sono allontanato un secondo. Vabbè, era giusto per vedere quel tappeto da una all'altra. Già è buona questa di modulazione. Dai, riprendete che mi devo allontanare adesso, 5 minuti. Va bene, Gianni. Dimmi. Eccomi, dai. Con questa cambia qualcosa? Sempre troppo amplificata. No, così è ottimale, T. È buona, va benissimo, così è gradevole da ascoltare, va benissimo. Ok, dai, la lascio così. Va bene, adesso provo a collegare quell'altro amplificatorino a quella Voleco, se spinge, se non fa radio nasina o quant'altro, se è 2 minuti, se no fa niente, dai. Ehi, vado a farmi una zizza e poi al limite ritorno in postazione. Sono qua, d'accordo. Ehi, dammi un minuto, Andrew. Adesso è perfetta, è la radio. Andrew. La radio è quella. Eia. Oh, che male, non ce la fa sopportarlo. Sì. Mi lo metto. Non ce la fa, porca miseria. E cosa può essere, porca miseria, porca? No, non va bene. Non va bene, porca miseria, porca. Ah, e questa è una cosa che non mi piace, lo sai. Lo so, però voglio dire, quello è l'altro apparato con l'aiutino. Mi dispiace, non ne hanno, questo non ne ha, questo è trasurista. Trasocializzato, sì, non ce l'ha. Cosa vuoi che ti dica? Ti dico di sì, dico non è, non è. Però aspetta, adesso faccio una cosa, tanto posso eliminare la camera, ecco, aspetta. Aspetta, per poco trattavo tutto, aspetta. Ora, come va questa, tu? Non ti piace, è il microfono normale, Ammi. Ma non è che la tua radio, cazzo, che è finucchia. E come te la vivo? Addirittura. Ok, eh? Ma se credi che non ti ho riconosciuto? Beh, comunque, nasina, eh. 1, 2, 3. Ah, tu, guarda. Sì, ha cambiato, era un FM. Quindi non ti piace neanche questo microfono, una cosa cacchio da metto, l'amplificato forse non lo tiene. Aspetta. Ora, 1, 2, 3, prova. E adesso come va? Oh, Ciccio Bagaglio! Ora, guarda questo microfono invece, Antu. Allora non ne ho altri. Lo so, però se non va con l'eco questa, che brutto, No. Non andare, vabbè, pazienza. Ascolta, non è con questo che va bene, l'altro che va male. No, questa parte le magagne che ci sono qua in casa, va bene. Mi dispiace per l'altro. No, c'è casino. E io. Sì, anche perché c'è gente qua. No, volevo attaccare quello piccolino. Quello piccolino con quello del secco, ma non fa. Nel Lincoln, non so, forse lo abbassare troppo in barato, non lo so. E compresso, non ho provato bene, non ho voglia adesso di stare a collegare, a scollegare. Magari nel Lincoln è perché devo abbassare tutti i barato, adesso stavo provando con Rolls, metto lo sbarato, metto attaccati. Lo so. Allora, vedi, questo è... Questo è accordato, vedi? Ma cosa state trapanando? Ho detto cosa state trapanando? Andare. Non so cosa fare, adesso non mi metto a fare niente. Ah, sì. C'è voi? Non c'è nessuno adesso. Sì, io. Adesso lo mangio adesso. Domani lo volevo fare. Aspetta che devo uscire questo qua, se no. Ehi, va bene. Aspetta, un attimo che devo salutare. Ora. Ora. Ora. Uno. Due. Attenzione, Antonio. Se ne cambiando. Guarda com'è ora questa modulazione. 1, 2, 3, 4. No, adesso va bene. Ti piace? Non ho fatto niente. Ma lo posso eliminare? Ma quale altra? L'altra... Vabbè, siamo troppo vicini, cazzo. Sto sparando più di 250 watt. Caspita. No, questa come va? Troppo ripetitiva. Prova a registrarmi, dai, che mi voglio sentire che... Qua ho il parlascolta, ma non riesco a capire come esce. Se non è molto leccata, mi capito? Dai, prova a vedere a registrarti. Dimmi quando sei pronto. Dai, guarda un pochino. 1, 2, 3. Attenzione, Antonio. Antonio, riserva, si ascolti qua questa piccola stazioncina. Cambia. Così mi dice, vedo un po' se lo devo passare, lei con me, no? Il motocar è arrivato qui. Attenzione, brecco! Auguri alla prova! Com'è lei che va ora questa radionina? Ho detto, è arrivato il motocarro. Ma tutti spariti. Va bene, tu, va bene. L'ho ascoltata, già mi piace, dai. Solo che il brutto di questo apparato è che non posso togliere l'eco. Avanti, motocarro. Eia, eia. Sì, già va bene, dai. A parte l'effetto motocarrossella, già va bene. Per me la radio è molto, molto meglio rispetto a quella che uso di solito. Molto meglio? Aspetta. Cosa ho fatto? No, ma il capo. Deve essere il capo, dai. Lei sta toccando da qualche parte. Eia. Vedi. Com'è Gianni? È bella, dai. A me il lecco piace, quindi no. È bella. Se puoi abbassarlo appena appena, lecco, ma un tantino. Aspetta, Hola. Così? Guarda un po'. Così, diciamo, ha un effetto migliore. Era troppo forte prima, ma adesso va bene, è come quello che ho io adesso, dai. Ciao Antonio Riserva. È all'ombra. Come vai da queste parti? Ah, ecco, ho capito. Adesso tu bazzichi in altre frequenze? Sì, con Poveto Falcone. Ah, ecco. Ti piace fare la reci? La reci di elefante, dai. KK, vabbè dai, ci fa sempre piacere quando sentiamo i vecchi amici, dai. Adesso ero da sentirti, da vederti, da quando ci siamo trovati col negozio su Al Monte, che c'era l'offerta delle cose, delle cosce di pollo. Oh, aspetta un attimino, Gianni. Nara. Per favore, guardami questo segnale, oppure mettimi il refrighino, non so, se lo abbasso, mi dici da quanto abbassa e quanto alza. Così è basso. 1, 2, 3. E così all'aiutino. Dimmi un po'. Qua siamo vicini, non è che cambi molto. Sì, cambia da 9,25 a 9,30, dai. No, troppo vicini, non fa. Qualcuno più lontano c'è. Ehi. aia. Ascolta, chiudi la finestra che stai entrando aria. No, magari se riesci a mettere il refrigerino, Gianni, così mi abbassi un pochino e si vede di più la, lo stato di avanzamento. Parla. Guarda, metti un pochino, guarda per se sei pronto, così ti faccio vedere il cambiamento, se, se c'è o meno, dai, me lo devi dire tu. Vado? Non sei uscito, eh? Prova. Allora, guarda, così è attaccato. Così invece è attaccato, vedi, 1, 2, 3. Secondo passaggio sei 0. L'ho chiuso tutto però, è arrivato sei 3. No, vabbè, ma mi devi mettere a 6, così almeno vedi un po', capito? Guarda, fa una cosa. Mettimi così a 6, in questa posizione qua, mettimi a 6, così almeno vedi un pochino. 1, 2, 3, prova, sì. Eccomi, così hai aiutato, vedi un po'. Da 6 a 8. Allora già c'è il cambiamento. Sono 20 di più, cosa vuoi di più? Va buono, va buono, per quello che ha. No, questo me lo dovete dire voi se è in saturazione o meno. Questa è la radio così, normale, con l'eco. Vabbè, quella migliore per te, perché sei vicino, perché se no adesso ti incendio l'apparato, hai capito che te lo incendio? No, così è staccato, così è normale, dai. Sai, antenna nella mia zona non c'è nessuno, già vederne uno vicino mi si urta. Sorda ma che sente, sì. Va bene, quindi Gianni, va bene come segnale, dai. Cazzo, Gianni è una sentenza, che non mi ha ancora risposto, vedi se stavo parlando. Sì, appena so qualcosa, appena mi risponde, te lo giro a te direttamente il messaggio. Io sono qua comunque. Questa che sto utilizzando? Sì, ma l'ha detto anche Claudio. No, questo è il 48 col più 5. Poi magari così cambia qualche cosa. Sono Gianni dal centro storico a Sassari. Mi dici come ti arrivo e poi mi dici dove ti trovi. A tu, rispondilo. La radio è molto bassa e quindi mi viene difficile mi viene difficile difficile ascoltarti, puoi ripetere? Sì, aspetta, quella che ha fatto è una vista che più che ti dicevo nel mio vai avanti che a te ti viene da ridere, è vicino a me però è un po' precario. Capa, ho capito, no, giusto per avere un altro riferimento, mi. Sì, ma siamo praticamente attaccati, dai. Solo che è un po' così con l'antenna ancora, se la deve sistemare. Capa, perché mi arriva quasi Santiago Nova, è qua, ma la radio è proprio incomprensibile quasi. Che c'è? Vabbè, io ti sento bene, se chiudo la finestra ti sento anche meglio. Lo so, è una bella zona questa. Per Sassari è una bella zona. E vabbè. E io così quando ci sto arrivando invece. Ascolta, a te lo chiedo, il controllo. Detto che adesso mi ha fatto tutte le orecchie. Ti devo regalare un microfono ben amplificato, Mario, più la giacca e gamboni, va a vedere. Ciao, ciao, bassino, bassino, mi adesso vedere il controllo con l'altro, però se ne vanno più di gente che c'è un casino qua. Infatti si abbassi l'amplificato, si sentono più loro che tu. E tu arrivi tre, si pone un microfono in bocca, mo se ti sento. Beh certo, e se sei piccolo io non ti posso fare niente, segnale arrivi tre, sono da tutt'altra parte della città, quindi sono io che ti vedo a te, tu non mi vedi a me, per quello che riesco a tirarti fuori. E tutto ti sto tirando fuori, però più di tre non riesco a far salire il segnale, la radio è bassa tu, il segnale potrebbe anche andare, se c'hai la radio più forte vai magnificamente bene per fare due chiacchiere. Va bene, dai. Ti sento comunque adesso, prima non ti sentivo. Adesso almeno ti sento, 3-4 arrivi. In assenza di QRM, ma io è difficile che ho QRM qua su, capito? Ciao anche a Gianni, ciao anche a Tino. E buonasera a tutti. E non mi trattengo molto, devo uscire, dai. 10 minuti, un quarto d'ora, poi vi lascio. Sì, ma di Gianni, di abbassare le voci, perché ho sentito a lì, non ho sentito a te. È impossibile che non intenda a me, la voce della verità ce l'ho io, non lei. E dai al telefono, si crede sempre, fa vedere con risoldo Mutti. Tu stai vicino a me, sì lo so, devo abbassare l'amplificazione qua, è che c'è mio figlio che era eufurico perché sta andando a dormire dal cuginetto, quindi era tutto schizzato. Ma vabbè, ogni tanto ci vuole. Senti un po', ho mirato un aiutino all'altra, e mi dici come va, aspetta che te l'accendo, vai. Se guarda neanche con 5 watt ce la fa qua, se perché se io ti ho detto se chiudo la finestra ti tiro le orecchie. Tino è forte con Giulio Lollaro e con Franco e boh, è un tego. Claudio, guarda così, dai. Vedi un pochino è la differenza, come fa da così a così. Guarda un po' se tu hai un apparato più serio. Staccato. Hola, attaccato. Allora ti staccato sei 9, attaccato sei 9 più 10, ti aumenta leggermente la radio, anche attaccato, non te la abbassa questa volta, ma bensì te la aumenta, però è troppo cattedrale. Vabbè, tutti non posso accontentare. Così è come me l'aveva messa Massimiliano Bulldozer. Vabbè, un po' cattedrale, l'eco si sente. Però va bene, la modulazione non distorce, anzi va ad aumentare leggermente quando attacchi. Va bene, va bene. Eia, per combattimento mi. Sì, va bene, ti, va bene, va bene. Si può usare perché la modulazione non si abbassa, anzi tende ad aumentare. Ascolta, guarda, Hola. Hola, 1, 2. Cosa ha cambiato? Ecco, meno cattedrale così è secondo me. Cioè la ripetizione va meglio. Hola, 1, 2, 3. Va bene così, dai, lascio così allora. Sì, sì, leggermente nemmeno cattedrale, così per me va molto meglio. Beh, adesso invece con questa lascio così, allora. Questo va bene com'è, non tocca se. No, ma tacca se. Allora Anto, che antenna hai messo? Bene, dai, adesso guardando bene sei sui 4, modulati quasi 5. La radio che è bassina, te l'ha detto anche Gianni, veda, lui arrivi 9 perché lui è molto più vicino a te, è quasi in viale Porto Torres, capito, quindi siete molto più vicini, però arrivare con quel segnale da me va bene, va bene. Un po' più la radio dovresti sollevare e sei a posto. È vero, Broffetta. Ciao Claudio, buonasera. È che c'è questa partita di tennis in corso. Buonasera, ben sentito. Tutto bene, dai, tutto bene. E ogni tanto noi giochiamo a tennis, anzi adesso non stiamo giocando più con Tino, se no prima, quando giocavamo a tennis io e Tino, negli anni passati non entrava nessuno, perché non ce la facevano entrare. Immagino, immagino. Adesso stiamo diventando più bravi. Quando eravate veloce Tino... fatto quella zona, anche quella, mi ricordo. Quella zona era bella sigla, caspita, alla veloce erano i pucchi. Adesso c'erano i pucchi, poi abbiamo la mania della gimbrana, sempre attaccati. Ui, come sto? E vabbè. No, io devo uscire a fare un po' di spesa con anche. Lo usciamo tanto fino alle 8:30. Ho col cane, prima o poi usciamo. Se no domani c'è il mondo, non riesco a prendere un cacchio. Ma anche io dovevo uscire, solo che sto tornando da un torneo tra stamattina alla Torre che hanno giocato, quindi adesso vieni, poi hanno finito alle 4, hanno finito, sono tornato giù all'altro, ho mangiato infatti un panino al volo, non ci vedo più della fame, che no vabbè, ho dato un bel panino con salsiccione, hamburger, patatine, cipolle, subisciati, se non vedevo i civili che stavano allo stesso, quindi, ma però mi hanno visto, trovavano i tappetivi. Ricordi quando negli anni passati lavoravo in fiera, solo lì si mangiava a mezzanotte, ma a mezzanotte una di due in quei carrozzoni, sono cose belle anche quelle, solo che adesso mentre mangiare quella roba guai, c'è un problema, c'è il reflusso gastroesofageo, non posso mangiare più di queste cose così, sennò guai, vabbè, adesso ti mando la foto a Pier Antonio dell'ultima radio arrivata, va? Così ve la faccio vedere, quella a fianco è quella vecchia, quella nuova è quell'altra un po' più grande. Ti è arrivata una nuova, manda, lo vediamo, va, manda. Poi volevo attaccare il 747, matto io, la batto la mia adesso, 747 al presidente, però non è saturazione, ma è tanto, forse vabbè siamo attaccati noi, quindi... E poi molto sicuramente con questa operazione perché farà modulato, fa da 5 a quasi a 12-13, quindi magari lo sposta troppo, non lo so, dovrei abbassare il vato dall'interno. Devi abbassare sì, se vuoi che non saturi. Tu va bene così, non ho voglia di... va bene così, la lascio così perché anche senza aiuto già si fa sentire. No, va bene, poi addirittura non gli sono neanche tutti in parte, quindi l'importante è che non vai in saturazione, che si senta bene. A me sta facendo che da 12 grado, non di più, perché poi c'è preso anche 40, ma non so come esce, quindi ho preferito passare di pochi bamburi. Ancora non mi ha risposto, comunque, non l'ha neanche visto. Che cosa? Quella di sopra è quella che avevo. Quella di sotto è quella che è arrivata l'altro giorno. Ma non mi ha mandato né quella di sotto né quella di sopra. Aspetta, ho mandato Antonio prima, adesso la mando anche a te. KK. Gianni, riprendi, Gianni. Eia, mi sto comendo una sigaretta. Ma allora sei tu, dillo, scusa, ti rilancio e mi dici questa cosa, la sigaretta non vuoi parlare, vedi. Quale ti piace di più, ti? Quella di sopra è per i gechi, c'è il monitor più grande. Ma c'è l'altra, c'è il end display in orizzontale. Quale ti piace di più? Ettime! Quella è bella, vabbè, sono due marche diverse, ma l'altra è Marta Guba, un altro pianeta. Sì, anche io, diciamo che quella di su, a piacere mio, mi piace di più, magari l'altra è più performante, però come radio sono su quella categoria io. La ISU è molto, molto bella anche perché al dimmi quadrato invece ce l'ha, però sono due radio diverse, fanno cose diverse, va bene. Ciao Daniele, buonasera, ben sentito. No, devo farlo perché quella lì, nonostante sia nuova ripacca, non ha un graffio, però è un po' anzianotta, e prima che mi lasciassi a piedi ho dovuto farlo, è stata un'occasione, l'abbiamo fatto, cioè abbiandoci tanto. Il bistino di Giammanni, l'unico bistino che va giù minori è Filippo, che ha 17 anni. Avanti Daniele. Buonasera Claudio, ben sentito. Dammi un rapporto segnale, come adesso? Sì, ma non devi agganciare. La prima cosa è tu devi comprare un microfono da tavola, un microfono amplificato. A chi con chi c'è radio vai, biedai, sembra che c'è una patata in bocca. Domani ritorna l'altro. No, non sono agganciato, no, sono liscio. Sei 9 più 15. Quando agganci vai a 9,25. Va bene. Anche questa prima o poi la porto dal dottore a fargli qualcosina. Va bene, ok. Ehi, va bene Daniele, va bene. Fino è il segnale più alto di tutti. Ah, io il Goody da Zia che c'ha sigaretta, lo bruffetta. Eccomi. Io faccio le sigarette col tabacco, così le cartine, magari a me bigliangino, tia, che pare mi gioco fumando un cannone. Non ci riesco a farle fini, lei già ci riesce. Io sentivo arredotti, allora mi fumo le mie, se la bigliangino. Bella passata di vento, caro Antonio Riserva, io faccio che Santenna. Bianco secondo, mi devo spostare. Cosa Antonio, avete parlato assieme a Daniele, cosa hai detto? Tanto prima di rifumarsi nelle bacchette la via, faccio rompere le balle a me. Vabbè, ma con 10 anni te ne hai fumate tutte. Io non posso smettere, Antonio, io non ne fumo molte, io ne fumo una decina al giorno. Però se non ce li ho mi dà fastidio, cosa vuoi ti dica? Non è che sto sempre a sigaretta in bocca, no? Però mi dà fastidio, anche perché se non fumo sto sempre mangiando. Io sono 14, Guarda Tino, tu fumavi un bel quando ci siamo conosciuti. Un bel, un pacchetto al giorno sì, lo facevo fuori, quando poi ero in bene anche un mezzo. E come mai io faccio le campagne del mio fuccia? E quindi c'ho sempre il tabacco appresso, capito? Però a casa, siccome non fumo all'interno, eccetera, quando sono magari qua alla radio qualcuno in più me la fumo perché c'è sempre la finestra aperta, è stato inverno, capito? Però non mi batti, io quando esco volevo avere le sigarette, ma se cosa devo mandare le sigarette non mi piace, a meno che proprio non sia una persona conosciuta che frequento, che ce le scambiamo, dammi una sigaretta tu a me, io la do a te, ma ciao, vai la sigaretta, a me queste cose non mi sono mai piaciute, e io l'ho sempre fatto, perché quando me le chiedono, a volte ce ne due o tre, prenditele tutte, non mi interessa, però a chiederle io mi dà fastidio. Cosa butta, ci ho provato un sacco di volte, non sono mai riuscito, ma ci sono riuscito. Dico, raffreddore, rimango anche settimane senza fumare, capito? Proprio non la cerco, non mi interessa, quindi non sono un fumatore accanito, però quando poi sto bene allora inizio a fumare, capito? Non tu, non ce la faccio, cosa vuoi dire? Non fumare, ti fa male, Claudio! Te ricordi che versione è? Quello di Massimiliano, quello versione 600 watt, quello con la scritta verde, il numero di serie, te lo ricordi? No, so che è Cobra GTLX 200 DX, il DX è la versione da 200 watt. Ciao Mari, buonasera. Ah, sì, è vero, ciao Mari. Ciao Tino, ciao Claudio, no, sono per salutarvi, ci siete più tardi, continuate, ciao Claudio. Ciao Mari, ben entrato. Sì, la versione è 200, GTLX 200 DX. Quella è la versione da 200 watt, la sigla è quella, poi altre cose non lo so. Avanti Gianni, riprendi. Eia. Diciamo che il vento si è alzato. Stamattina stavo controllando l'antennina, ho visto che si muove, balla, però è tutto nella norma, dai. Cazzo, gente, si muove che c'è l'antennino. Cosa c'è là nell'antennina allora? Ci sono delle tipe che si sente laggiù, tum, poi fa l'altra parte, tum, come blocca la frizione del rotore, lascia perdere, meglio niente. C'è la canna da pesca, la 5 ottavi, io VHF, che alta quasi 6 metri, e stamattina quando sono uscito a prendermi caffè era 45 gradi. Però non aspetta quella, mi ha preso il vento, sono antenne fatte apposta, ma quella tua, stai tranquillo che già non fa niente. Naturalmente Antonio, che andiamo a montare, abbiazzato quella di Marcello, a proposito l'ho visto avanti ieri a Marcello. Siamo visti via, vanno a basso, stavano a fare un intervento, sono fatte le 9 così, una cosa del genere. Ci hanno preso caffè, due chiacchiere, però è andato via subito. Bei tempi. Vabbè. Avanti, ti. Già, a proposito, Anto, la team mi ha fatto una proposta. Lì mi sono salutato a me. Praticamente mi ha aumentato di giga internet e poi mi ha dato un team box per attaccare al televisore, in maniera che posso vedere tanti altri canali in più. È conveniente attaccarlo oppure no? Non ne sai qualcosa? Mi è arrivato proprio ieri il pacco. No! No, vabbè, la connessione, scusa, ho detto che era, abbiamo fatto lo speed test, questa roba qua era 5, 6, praticamente l'hanno aumentata a 10, quindi, cazzo, voglio dire, è meglio di prima dovrebbe andare. No, non metto in dubbio, cacchio, io sto pagando con lì, e gli altri, cazzo, scusami. Piacere alla Cuporella, cosa vuoi ti dica? Qua la fibra non passa, quindi dimmi, Claudio. Ma il team box te l'ha dato la team, perché non passa la fibra, io ce l'ho la fibra, però col team box devi avere lo smart TV. No, non è detto. E come l'attacchi? Non ce la porta USB il team box? No, anche HDMI. Perché io c'ho lo smart TV, c'ha tre attacchi USB, poi c'ha gli altri, il 4K HD, e il team box ce l'ha praticamente con addirittura mi hanno passato qualche euro, non di tanto, qualche euro di, sulla bolletta, e niente, mi hanno dato 10 giga, adesso vediamo, adesso provo a fare un test se riesco, sto cercando la... Sì, se provi la fibra te ne le chiedi, una cosa allucinante, non l'ho mai vista una cosa del genere, non ci credevo. Io quando sto a accendere il mouse, zoom, parte la pagina, prima dovevo accendere il computer un quarto d'ora prima per aspettare che si aprisse la pagina. Ho capito, quindi adesso, prima io c'avevo sempre a 3-4, adesso mi sta salendo a 8, 7-8, quindi qualcosa è successo. Tanto poi rilancio a Gianni, tanto, ma può essere che, siccome a me me lo segna, a volte mi segna 400, 500 megabyte, ma può essere, di velocità. Un collegamento. Ah. È differente questa. questa era normale, dai. No, va bene, va bene. Sì, Anto, prova a vedere se arrivi. È sempre acceso. Ditemi dove siete, porca miseria, porca, se no vi metto la portantemi. Oh, pronto? Ehi, io ci sono! Tino! Arrivo, un attimo. Claudio! Aspetta, Antonio! Dove sei? No, nell'altro, dove sei? Guarda che stiamo parlando, non ci senti? Parla un attimino che ti sento male in questa radio, prova. Continua, fai. Sì, sei Saturino di radio, boh. Comunque guarda che siamo là, prova a vedere se ci trovi. Se non ti ricordi coso 081 finale. Lo profe. Ehi, mi sto arrabattando col telefono, dimmi. Ah, però tu già sei rimasto, sì. Boh, non so dove siamo andati, sono spariti, grazie, boh, boh. No, siamo qua, stiamo provando la radio. Benemeda, benemeda. Dai, dai. Ciao, ciao, sono nell'altro canale io, Ok. Ciao, dai, era giusto una prova al volo che hanno collegato a un'antenna, quindi dovrei provare segnale. No, già arrivo, arrivo. Arriva meglio là che qua, dai. Lo so, gli ho dato la mia, l'altra, quella che avevo io prima, ti ricordi? Che poi l'ho cambiata. Siccome era sul tetto, è piazzata in questa. E poi addirittura dovrebbe andare anche meglio di me. No, già arrivo, dai. Questo lo dico, vabbè, io non ci batte con lì, non me ne frega niente. Però per fare qualche prova già va bene. Avanti Giulio, c'è anche Gianni, il profeta, Daniele, Antonio e Tino, io poi sono un po' stacco perché devo uscire, dai, riprendi. Ok, allora sono un po' tutti, dai. Ciao Antonio, Tino, Gianni, il profeta e poi c'è l'altro, Daniele, a te Claudio. Vabbè, sono arrivato adesso, dai, stavo guardando la televisione. Dunque, adesso ho deciso di modulare un pochino, sempre se c'era qualcuno, ho pensato, ma sento che c'è qualcuno ed eccomi qua. Avanti Tino. Capo, buonasera Giulio. No, noi siamo un po', perché c'è stata una dritta di un'antenna da controllare, l'abbiamo controllata e siamo ripassati subito qua, dai. E poi già c'è seguito. Ok, beh sì. Sì, perché l'ho acceso contemporaneamente, dunque l'ho sentito. Anche là vi ho sentito, anche in PMR. Avanti! Arthur, mi senti? Arthur. A fare la pipì o la cacca è andata. Cristian, tu sì? Tu ti hai capito, non è questo, se non mi sbaglio, se non mi ricordo male. Cristian, tu sì? Ciao Cristian, grazie, non ti ho più visto lì nella zona di Via Pascoli, sei diventato bandito. Ok, dai, già mi ha spiegato il tutto Antonio, che ci siamo sentiti due giorni fa, ci siamo sentiti a telefono, per cui già mi ha spiegato tutto, va bene, d'accordo Cristian, ha fatto piacere comunque di sentirti, dai. Avanti, Rubrafetta. Ciao, buonasera Giulio, ben entrato sulla ruota del 10. Chi entra, chi esce, stasera oggi ha aperto i cancelli doppio room, si è spostato, forse rientra dopo. E quindi niente, io sono un po' a targhe alterne, perché sono sempre appresso a quel problema di ieri, quindi insomma, anche io sono un po' in alternata, dai. Ok, Gianni, in alternata sì, vabbè, dai. No, io sono in continua, sono oggi. Va bene così, dai, tutto fa brodo. E beh, Claudio, io ripreso ti sei, dal dispiacere. Già mi hai capito. No, non mi interessi più di tanto, guarda. Io manco domani la guardo. Dovevamo andare in campagna, tutti assieme, poi però io in campagna non ci vado, ma rimango a casa. Quindi ognuno a casa Giulia, anche se me ne ha fatto due più da me di Juventus. Io ho finito di guardare il campionato, di guardare le squadre. Guarda. Ieri mi ho guardato il coso, manco il Napoli, ho saputo che ha perso, meglio così, manco non ci vanta Ancelotti a essere più bravo di Allegri, sono tutti e due uguali. Ho guardato il Tottenham, hai visto? Così si gioca a pallone. Quando la vuoi vincere una cosa, anche in casa degli altri, te la giochi, capito? Quelle sono squadre che mi piace vedere, non le squadre italiane, che sanno solo correre cercando farfalle e insetti, non seguendo la palla, capito mia? Quindi per me... Da quest'anno il calcio è chiuso, non ho mai dubbio io di Juventus e di quadri italiani. Mi guardo il campionato europeo, che forse imparo anche qualcosa in più. Avanti, Tino, riprendi. Capola, intanto dovevo approfittare a schiacciare il mic perché mi devo spostare, devo uscire fuori a fare delle cosette. Dai, ci si riascolta, rilancio il mic a Antonio se c'è ancora, se è rientrato, e poi aspetto i finali e poi devo dire. Ok, ciao, ciao a tu, sì, ti sento, un po' bassino ma già ti sento, dai, già ti sento, non ci sono problemi, certo al telefono ti sentivo meglio, No, ma comunque già va bene, dai, già ti sento, non è un problema, anche se il segnale è basso, ma non ha importanza, anche la radio è bassa, però è abbastanza chiara, la tua voce è abbastanza chiara, dunque va bene così. Vabbè, dai, facciamo girare. Avanti, non fretta. Ciao Giulio, riprendo io, buonasera. Ciao Daniele, anche tu ci sei. Io pensavo che tu non c'eri, figurati. Va bene, mi fa piacere, dai. Riprendi tu allora, vai, fai girare tu. Era in parcheggio perché quelli del 23 mi stavano ammazzando. Castro canali non hanno di Fabidà. Tu, fai una cosa. Quando senti di splattere, fatti una fischiatina, così non ti nervosisci. Vabbè, dai, 48 è così, dai, raccoglie tutto, raccoglie. È da combattimento, anche in ascolto, non solamente in trasmissione, anche in ascolto è da combattimento quel baracchino. Va bene. Vai, rubrefetta. Ve l'ho detto che sono a corrente alternata io, che mi sto ancora azzuffando con questa cosa qua, che sono arrivato a metà, ancora mi serve l'altra metà. E mettiti i numeri a caso, frega, se tanto già fanno bene lo stesso, poi che qualcuno risponderà quando fai il numero, metti i numeri a caso, a tutti i dici. Cosa te lo frega intanto? Va bene, dai, Tino, ancora così. Tino se ne è andato, Tino. Ha detto doveva uscire fuori, invece deve accendere il fuoco, oggi è venerdì. Tino di quelle cose ne fa spesso. Lui è amante della graticola, della graviglia. Vero tu, anche tu così. Vabbè dai, ragazzi fate dieta, se no ingrassate troppo. Adesso adesso che è subito Pasqua, dopo domani bisogna mangiare poco, perché se no voi dopo domani nella campagnata siete troppo pesanti e non avete voglia. Avanti Claudio. No, ma è normale, se quando c'è il posto è così, quando siamo in campagna è la stessa cosa. Qua a casa non si può fare niente, però è giusto che sia così, si va in campagna per stare, per fare quelle cose, anche per essere libero di poter cucinare come voi, capito? È giusto così. E vabbè, no, io domani sabato e domenica, e vabbè, è lunedì sicuramente, oggi è un vento, fuori stamani, ma vento bello. Va bene, mi sta passando la via Cucci, ci tendo l'ubrete, che intendi? Si molla Filippo vuoi? L'anno scorso ci ha mangiato Gadrea e Predi, bu. Ma dove ti sei trasferito? Eia, a San Camillo. Guarda, non è la Filippo, perché tu sei fatto già il prete e di voi sei calata a Gaglia. Invece l'anno scorso me l'ho vista brutta, perché nel cancelletto piccolino, non nel passo Carraio, nel cancelletto piccolino dell'uscita del palazzo, c'è una fermata, ogni anno la fanno, non so se la quarta o la quinta, perché partono dalla chiesa qua del Cristo Redentore, no? del quartiere. E io non mi sono ricordato, l'orario è questo, più o meno 7:15, 7:30, e c'era un tavolino lì nel cancelletto, Rubride che era disegno della messa, un megafono. Come sono uscito dal cancelletto, Filippo, ho visto tutta questa gente ammucchiata a questo prete vestito di nero che paria la gorraccia, è partito giù mai Girumagna, che ma cosa ha detto, poverino, che bravissimo, è che lui quando esce dal cancelletto non vede mai a nessuno, ha visto tutta questa gente, invece si è spaventato, vede tutta questa gente a casa mia, siamo invasi, è quella a casa sua, capito? E quindi ha iniziato a pagliare, e meno male l'ho riportato dentro, se no si aveva mangiato Rubredi e tutta la sacristia. Perché è un lord, è inglese. No, è stato così, giusto, mio genero ha voluto metterle Filippo, allora, che poi lo chiamo Pippo, non Filippo, e si gira lo stesso e risponde ai comandi lo stesso. Va bene, avanti Gianni lo Broffetta. Ma Daniele che fine ha fatto? Ci sono, Cla, ci sono, mi stanno ammazzando quelli del 23 quando escono. E c'ho due canali in uno alla fine. E poi quando schiacciate la portante dopo un po' fa le pernacchie. Quelli del 23, anche dietro del 23. Anche oggi si sono resuscitati, ma chi sono i maestrali? Ogni tanto entra qualcuno. E allora quando entra qualcuno al 23 sto zitto, perché sennò si incasina tutto qua, capito? E poi dopo un po' quando smettono di modulare, che schiacciate voi le portanti, a te non lo fa, ma agli altri, la maggior parte degli altri fa la pernacchia, mi fa quando schiacciano la portante prima di modulare. Oh yeah, va bene. Non c'è nessuno su 23, non sento nessuno io. Avanti giù. Ok. Va bene, dai, alleghiamoci, che adesso arrivano 50 milioni di cavallette. Così almeno tappezziamo le frade dell'Italia con le cavallette. Come già successo tanti anni fa. Che io mi ricordo che quando passavo la macchina si sentiva più il rumore dello schiacciare delle cavallette che il rumore delle gomme del motore. Ui, santa miseria, vabbè là, avanti a tu, canta. Canta bene tu, dai, impegnati quando canti. Hanno previsto che arrivano 50 milioni di cavallette, uno sciame grandissimo, è molto ma molto nutrito come numero, vabbè, staremo a vedere, dai. Come la fai, ABC? Ve l'ho detto che sono a corrente alternata, che sto cercando qua roba al computer, quindi sono un po' distratto. Adesso vabbè, ok, mi sto distraendo parecchio, dai. Ok, dai. Vabbè, la linea di sé che ti stai dedicando alla telematica. Sì, un po' col telefonino e un po' col computer, va bene, anche quello è bello fare. Tanta miseria. Avanti, Daniele, arrivato questo baracchino che era dal dottore. Domani vado a recuperarlo, vediamo cosa succede. E va bene. Poi già mi attrinzo, vediamo se riesco a fare. Allora domani sarà andata a ritorno se fai 200 km. No, meno. Ehi, 190, permettivi. Vabbè. Ma non si prende un po' l'aria, in montagna, si prende un po' l'aria di bici. Va bene, avanti Claro, portato al carro, lo devi portare. È andato a portare Filippo. Filippo, gli aveva messo Filippo perché lui è juventino, no? E siccome non la Juve c'era un certo Filippo alla volta, cioè Inzaghi, ed è per quello che ne ha tolto il nome a Inzaghi, ne ha copiato, e l'ha messo al carro, Filippo. A tu, a te Biasi, Filippo. Lascia Filippo, ehi, ma due cavallette. Vabbè, dai raga, io mi vesto e vado a portarlo Pubino, che già è entrato due volte qua, lui a quest'ora non vuole uscire, intanto la processione è già passata. Se ci siete, ci sentiamo dopo, ok? Che prendi Gianni? Sono un po' in cosa, ho già, vabbè dai, mi sei anche impastata in grugliura della ringa, e niente dai, avanti giù. Ok, sì, va bene, buona passeggiata allora, Clà, se sei portato il cane, non so se siamo ancora qua, bisogna vedere quanto ci impieghi tu a rientrare, almeno sino alle 8 io suppongo di stare a frequenza, poi bisogna vedere la chiamata dal mazzo, se è in anticipo oggi o se è sempre a solita ora. Intendo la chiamata per la cena. Va bene, dai. A dopo eventualmente, ci sentiamo. Vai tu. Sì. Scusate un attimo che mi sono dimenticato di consigliare a Claudio di portarti il rosario, visto e considerato che c'è la processione, di portarti il rosario mio. Oh Claudio, ci sei ancora? Già andato di me, vai andare a prendere un rosario. Oh, via. Vai Daniele. Gava, siccome ti ho già sceso a portare il cane. Va bene. E quindi giù, che si dice? Cosa si dice? Boh, ero tutta la sera attaccato un po' al computer e un po' alla TV, non sapevo cosa fare. Eppure ho fatto bene, adesso accendiamo un po' la radio, vediamo un po' per farlo scaldare, perché sistematicamente bisogna farlo scaldare questo apparecchietto qua tutti i giorni, è meglio farlo scaldare, se no bisogna riportarlo dal dottore, come mi è successo tempo fa. Va bene, dai, avanti Antu. Ma chi è Antu? La tua riserva, ciao a tutti. veramente avete sentito, dai, fatti sentire, già lo sai, te lo spiegato dopo le truppe, la mattina quando sei libero, sempre con solo il tuo squillo eventualmente, perché se no magari sono anche all'interno, non ti sento, perché la porta è chiusa, oppure sono in zona e non sono presente nel solito posto, ma in zona intendo a distanza di qualche centinaio di metri, non di più, per cui va bene così. Fatti sentire quando puoi. Ciao Antu, salutami Cristian e salutami anche tuo padre. Ciao Antu, alle prossime. E salutami anche la famiglia. Ciao. Riprendi Daniele. Caparoglio, ciao Antu, ben sentito, dai, ci ascoltiamo alle prossime. Riprendi Giulio, boh, fai già se c'è Gianni o chi è rimasto. Gianni è ancora impegnato col computer. Gianni, ti risolviamo? Ehi, vabbè, entro a salutare. Salutoni ad Antonio, ben ascoltato. Ci risentiremo all'improvviso quanto prima, appena capiterà l'occasione. Ok, buona serata e buon proseguo. Va bene, sì, ve l'ho detto che io sono in corrente alternata oggi e quindi sono così, un po' svarioni e niente, dai, avanti giù. Avanti? Avanti? Ehi Anto, non c'è problema, anche io qua c'ho alti e bassi con mi ricezione più che altro, che questo giocattolo qua mi ammazzano, no problema, ci ascoltiamo alle prossime, dai, non c'è problema, già siamo qua noi, riprendi Giulio. Ok, dai, ciao di nuovo, Anto, ciao, alle prossime, ci sentiamo, bene, bene. Sì, oggi è corrente alternata, Gianni è corrente alternata, evidentemente. Ma poi alla fin fine, adesso stai lavorando sul computer, mi ha detto Gianni, ma alla fin fine poi il telefonino l'hai messo a posto per bene? O sempre ha qualche difetto? No, io sono al computer perché sto cercando la soluzione per il telefono e in questo momento il telefonino è collegato al computer tramite cavo USB, tramite dei programmini sto cercando di sistemarlo, capito? Quindi è tutto connesso. Ah, ho capito, lo stai interfacciando, ho capito. Sì, vabbè, dai. Io di queste cose non è tanto, è utile che me lo spieghi come si fa, perché intanto poi non li capisco perché non so usare il computer. Io il computer lo uso solo per leggere il giornale, vedere lo sport e basta, cioè la Nuova Sardegna, tutto sport, queste cose qua, ma niente di più. Poi per altre cose, sì, vedere le radio, queste cose sì, ma per il resto non è che sono capace. Non sono capace, anzi devo essere sincero, non mi ha nemmeno mai entusiasmato il computer. Lo so benissimo che è una cosa importantissima, però non mi ha mai appassionato per potermi addentrare un po' meglio rispetto a quello che so fare. E dunque non mi interesserò mai. Vabbè, dai, avanti Daniele. Anda bene veda. Giulia, aspetta. Così, se sbagli qualcosa, poi programmi e controprogrammi, si impalla tutto il cuore del telefono alla fine, lo so, mi è successo anche a me una volta, e non sono riuscito a sbloccarlo, e così è rimasto, ma fine ce l'ho buttato, e va bene, bisogna ogni tanto adeguarsi, diciamo, tra virgolette. Tanto tutto così funziona, è tutto col computer. Sì, quando sì, è vero, bisogna sì adeguarsi ed è giusto anche che uno lo faccia, l'adeguamento personale per il computer, però ci vuole anche passione per poter appunto usare certe cose. Io passione per il computer, sinceramente, devo essere sincero, sono anche in difetto, che cosa ne so, sono solo che non mi piace. Lo accendo perché ce l'ho, ne ho più di uno, se per quello, e dunque lo utilizzo per quel motivo lì, solo per leggere il giornale, vedere lo sport, informarmi su cose che so io, sull'elettronica, su radio nuove, queste cose qua, insomma, ecco, antenne, insomma, la passione della radiotrasmittente, poche parole mi porta a controllare queste cose, ma non più di tanto, però poi per il resto non me la facevo più nulla. Dunque sono quelli che ci vivono giornalmente dalla mattina alla sera con computer, almeno non mi quadra troppo, ecco quello che intendo dire. Comunque riconosco che uno strumento straordinariamente bello e straordinariamente anche molto ma molto interessante. Però a me non mi piace, non ho passione perlomeno, non è che lo disprezzo, però non ho passione per usarlo più di tanto. Avanti Daniele. Peggio di me fai giù. Io mi guardo a me. Queste cose qua, che mi hai detto tu, qualcosa del fuoristrada, radio, e se trovo magari qualche istruzioni, quelle online, o consiglio, o qualche video di tutorial come poter risolvere alcune cose, come aiutino. Poi per il resto, se trovano queste cose, mi interessa più nulla a me. Ok. Poi ne ho di strumentazioni qua, tu pensa che ne ho uno nuovo, lo accendo solo per caricare la batteria, è tanto grande, portatile quello, poi c'è il mio personale, poi c'è quello da base, diciamo, la stazione fissa, del computer della stazione fissa. Poi naturalmente ci sono anche i computer di mia figlia, qua c'è quello di mia moglie, e venendo il computer di noi, siamo bene i computer. Figurati un po', però ripeto, quello portatile che ho io personale lo accendo ogni tanto in tanto sistematicamente, proprio per non mandare in avaria la sua batteria, e allora lo accendo per caricarlo, niente di più. Se ho nuovo, se ha lavorato in tutto da quando è stato comprato, se ha lavorato, se no 5 ore è troppo, guarda, ce l'abbiamo già un paio d'anni quello, mentre invece quello da base, quello già ce l'abbiamo almeno 4 anni, una cosa del genere, 4-5 anni, quello già l'ho sfruttato un po' di più, però ripeto, sempre per queste piccole cosette mie così. Poi naturalmente chi lavora sono i computer di mia figlia, quelli già lavorano, dalla mattina alla sera sono sempre andelli, e più di uno anche, vabbè dai. Come sei adesso? Ve l'ho detto, sto navigando a vista e quindi niente, sono un po' incasinato. Facciamo una cosa, che se no non riesco a finire. Io me ne sto un attimino in ascolto, provo a finire questa cosa qua, che devo scaricare della roba da internet e vediamo un po' se ce la faccio. Rimango un po' in ascolto, casomai appena vedo che le cose, insomma, che le cose migliorano rientro. Ok, dai, per adesso rimango in ascolto, ok, grazie. Ok, allora io ti saluto, dai, perché intanto suppongo che fa un po' mi chiamo, dai, perciò ti saluto già da adesso, ci sentiamo alle prossime, ciao, già. A domani eventualmente, se coincide, dai, avanti Daniele. Ok Gianni, dai, fai pure, anch'io sto un altro pochino e poi anche qua la pappa è quasi pronta. E allora cos'è Energy? Come sta andando Daniele? Bene? Sempre lì giù, sempre lì su, parcheggiata, il vento permettendo che me la butti giù, ma non penso, a parte gli scherzi, sembra si stia comportando egregiamente giù, poi dovete dirmelo voi com'è. Già va bene, va benissimo, non ci sono problemi, la buia va benissimo, 9:09 il segnale, adesso ho dato un'occhiata così, mi sono girato un po' vedendolo da lontano, perché la radio è lontano e il microfono è a distanza dalla radio e io sono sdraiato, devo immaginare, insomma in poche parole sto contrendo. Va bene, non ti preoccupare. Cosa dirti? Allora, domani mi chiedi l'altro baracchino. Vabbè, sono contento. Cosa gli hai fatto? Ho preparato mai? Da combattimento vai richiesto? No, era sempre da combattimento giù, però le ho fatto togliere un po' di casini che c'erano, capito? Relè contro relè e via dicendo. E poi si è bruciata la scheda del BIP e è arrivata oggi, da martedì che l'ha ordinata. Quindi la piazzata e mi ha detto che era a posto. Ah, ho capito, allora se si è sentito al telefono con lui, ho capito, sì, beh, certo. È già una grande comodità che ci sia qualcuno che ancora si occupa di riparare queste piccole attrezzature che abbiamo noi, perché già lo sai, qui a Sassa ad esempio in Ispa non c'è di più nessuno, anche, voglio dire che lo faccia per professione, dai. E poi quando su proprio che lo fa per professione, ma cos'hai preso il tecnico patentato nel senso professionale? Sì, un laboratorio tecnico, giù sa televisori, radio, un laboratorio giù. Capito? I vecchi laboratori che aggiustavano le televisioni e apparati radio, quello che c'era da aggiustare. Aveva serio, di tutto c'è lì. Ah, ho capito. Ma tu ci sei andato a portarlo o qualcuno te l'ha portato per te? O sei andato tu direttamente? No, giù, io di persona, gliel'ho portato, lasciato. Gli ho fatto avere direttamente il pezzo dal continente, fatto arrivare a lui e domani vado e me lo ritiro. Tanto va bene, no, perché se era da spedirlo in continente sarebbe marcito qua, ne avrei fatto no giù, non mi fido. Se quando la spedisci che già non funziona, pazienza, una volta che la aggiusti e poi col trasporto la sballottano, prende i colpi a destra e a sinistra, te la ritorna nuovo malconcia e si giravano le scatole, capito? E poi lì certo non chiedono neanche pochi euro per aggiustartela, a molti molti di più. Beh certo, solo l'inconvenienza che c'è del fatto che devi fare il pacco, trasportarlo, mandarlo, spedirlo, no, ora poi è meglio, se c'è qualcuno che lo può fare qua è meglio che lavorino qui le persone della Sardegna, non quelle di fuori. Io lo dico, capita. È giovane questo tipo, o anziano già vicino alla pensione, com'è? No, però un'eventuale magari possibilità, un domani di avere necessità della sua prestazione da operaio, capito? No, già è giovane giù, dai, ancora già ha tanto da lavorare. E se veramente è bravo già ne fa di strada con le radio. Perché ormai non ce n'è qua non ce n'è. Lui è l'unico dei pochi che c'è lì di passaggio, ti fermi e la lasci, capito? Ti fai una passeggiata, in meno di un'ora arrivi, ti lasci la radio, te ne vai e quando è pronta te la ritiri, ti fai una passeggiata alla fine. Che poi non è tutta questa grossa cifra di carburante che ci vuole tra andare e tornare. È anche abbastanza onesto e tutto. Adesso domani la proviamo e vediamo come gira. Se le ha preparate bene l'elica dell'elicottero. Va bene, no, sono contento che ci sia ancora qualcuno che si occupa di fare queste riparazioni. Sono contento, guarda, perché se non siamo proprio terra a terra veramente, siamo a livello di tecnici per fare certi lavori, ma comunque speriamo bene. E allora auguriamogli vita lunga a questa persona, perché non si sa mai, potremmo avere tutti bisogno di lui, visto e considerato che ci unisce questa passione per la radio. Va bene, meglio così. Sono contento che ci sia. sia una persona che possa appunto aiutarci, a parte il fatto che bisogna pagare, ovvio, quello è normale, ma sono contento che ci sia uno che possa dare una mano a chi ne ha necessità. Vabbè, riprendi, riprendi. Capa, capa. Sì, così è giù. Buono, buono. Intanto, anche se non è tutti i giorni, alla fine che un elettrotecnico aggiusta baracchini o radio in generale, capito? Può capitare la volta, però. E vabbè, cosa vuoi ti dico? Altre mentalità, non lo so. Comunque, prima o poi già mi attrezzo anch'io, Giulio. Non ti preoccupare, che ritorno alle vecchie origini. Eh beh, certo, certo, Daniele, ci mancherebbe, io lo dico. Ma già, vai già bene così, mio, non ti preoccupare, non ti credere che non stai andando male, va benissimo anche alle, come sì, per cui, va bene. Adesso io vedrò quando incomincia a migliorare bene il tempo, di spostare l'antenna, così ci prepariamo per fare il combattimento con la propagazione dopo. Così almeno, anche se, va bene lo stesso, l'anno scorso ad esempio l'ho lasciata lì lo stesso, dove adesso, in marzo, eppure ho fatto lo stesso i collegamenti, e però così, per curiosità, perché voglio rendermi conto se funziona allo stesso livello della mantova, o giù di lì, dai, o su di lì, non lo so, o giù o su di lì, staremo a vedere, faremo il confronto. Così, per vedere se la prestazione di questa canna da pesca è buona o a bene, veramente, a che livello può arrivare. Va bene, riprendi. Provare per credere giù, vedi un po' già cosa ne esce fuori quest'anno. No, io guarda, sia con la Ringo che con questa che ho messo in confronto alla Mantova Turbo, mi sa che vabbè, quella Mantova era piazzata a ne mancava la metà dei radiali, però con queste sto andando bene un po' da tutte le parti, che prima forse neanche, almeno che mi ricordo io, non erano così le prestazioni di ricezione, ero molto un po' penalizzato, diciamo, forse, non lo so. Ok, sì. Intanto nel frattempo ne faccio un'altra io adesso. Così, se per caso si dovesse rovinare quella o rompere, c'è subito pronta l'altra. Insomma, il ricambio in poche parole. Saremo a vedere. Ne farò un'altra. Ho già parte dell'occorrente che serve, ce l'ho già. Per cui vedi qua fare un'altra, anche se non è che mi serve, però così nel buon dire ne avremo un'altra nel ricambio, dai, tanto per fare qualcosa, tanto non so cosa fare durante il giorno. Quello è, se ne metti una da parte e una dall'altra e provi le differenze giù, poi quella che ti soddisfa la lasci e l'altra la togli. È che ci vuole troppo cavo magari a fare queste prove. Ma il troppo cavo non è che mi senta più tanto, non è quello il problema, non è che mi blocca l'acquisto magari di una ventina di metri di cavolo. Figurati se mi blocco così io. Diciamo che ho già fatto, intanto ho già la canna alla pesca, intanto. Dunque, poi mi sto attrezzando per il resto, ho già preparato il tubo per fare la bobina, adesso dovrò comprare il cavo, e incominciare con la bobina, e dopodiché si va avanti. Non ne ho fretta, sia ben chiaro, questo è contattissimo, tanto la mattina se non trovo compagnia ne rinchiudo dentro nel mio ex laboratorio e almeno quello faccio, così mi diletto e mi diverto lo stesso, tanto per trascorrere qualche oretta così. Vai Daniele. Ma di nuovo colpi sto prendendo, ma qua Sassi oppure lì dalle tue parti giù? Oh, sempre al solito posto, sempre io al solito posto, all'interno, carro mostrano esatto, il locale l'hanno mostrato esatto. All'interno ho sempre tutta la attrezzatura. All'esterno invece la parte davanti c'è l'ufficio. Ho capito. Già un giorno non ci metto piede lì, pensa tu. Lo so. Da quando non ti sei sentito più con portino così, anima lunga, molto di già, ma con questo bottinongo. Ci avevi capito che non ti sei più visto da quelle parti. No, negativo. Non è più visto né più sentito. Anima lunga, raga. Io lo vedo praticamente quasi tutti i giorni, essendo lì. Lui abita lì, abita, all'angolo, non a casa della madre, nell'angolo, in un appartamento indipendente. Per cui lui c'era sempre di l'antenna nel palazzo dove sono io. C'era sempre l'antenna, solo che non ne sta usando di baracchino, anche perché non abita più a casa della madre e abita nell'angolo, sempre lì però nell'angolo della strada. Gava, ma chi c'è? Già ne ho più rumo al 23. Ma no, polarsi pure, non so. Sul 23 ci sarà qualcuno come Tino va di solito a fare prove lì. E qualche altra persona, anche, non lo so, non ci vado mai, raramente ci vado sul 23. Sul 23? No, sul 20 stavo intendevo. Tino va sul 20, non sul 23. Vabbè, sul 23 io lo sai chi c'è solito. C'è Tore Squalo, ci sarà Gio Maria, ci sarà Battisio, ci sarà Marino, questa gente qua ci va lì. Ogni tanto ci va anche Luca, perciò siamo divisi, abbiamo due gruppi, uno su 10 e uno su 23, cose di un altro mondo. Ma quando mai, no, se fossimo stati tutti quanti più intelligenti non avremmo formato un unico gruppo. Vabbè, giocare ti dico. Contenti loro, contenti tutti. E chi vuole entrare qua le porte sono aperte. Io la penso così, poi dove ti dico. Oggi si stanno trattenendo di più, io li sento chiaro chiaro qua, non c'è bisogno che mi sposti andare a cercare, a spiare, a fare. È solamente da sentire questa radio. Tu ti metti al 10 e senti le voci chiare degli altri canali, chi c'è e chi non c'è. Figuriamoci, no, io non sento nessuno qua. Qui silenzio assoluto, non sento un'anima, non sento un sibilo, niente, nulla. Vabbè, dai. Sì, lo so, però sarebbe stato più bello ad ingrandire le ruote, cioè la ruota, invece no. Vabbè, comunque, la ruota migliore è sicuramente questa, senza togliere niente a nessuno, per carità, assolutamente, e tantomeno senza fare polemiche, però ritengo che la ruota migliore sia stata questa. Almeno se fanno dei questioni sicuramente più piacevoli, più interessanti. Quello è poco ma sicuro. Va bene, Giuseppe, vuoi ti dica? Cosa vuoi ti diga? Ma anche prima era così, che c'era il 10, c'era il 23, che era manca, che era a destra. Sì, ma prima c'erano 5.000 persone per questa, per così dire, no? Ma oggi siamo 4 gorliata, 4 gatti, cosa? Non sta bene. Alle volte le controversie sono maledette, le controversie tra le persone sono maledette. Ah, cosa vuoi dire? Comunque io ritengo sempre che le persone che anche se hanno avuto delle controversie che non riescono a perdonare è una questione, a meno che non ci sia un motivo importante. Però finché sono stupidaggini, secondo me, è da persone intelligenti perdonare, perché nella vita bisogna anche saper perdonare. Ripeto, se non ci sono cose e offese importanti, allora è un altro discorso. Allora ammazzate questi bastoni. Chi è che è l'FM? Ma io che sono la M, buonasera, ciao Giulio, ciao Giulio, sono il barco del Franco. Allora ti faccio. Sei tutto saturo. Ti faccio io di che sacco, aspetta, sono io. Sono tutto saturo, veramente. ma lì metti a posto la radio, che se stai andando male la radio. Marino, anche riconosciuto, cavolo, è tutto sciato, sembrava in FM. Abbassa Maria, abbassa, e sei saturo, incomprensibile. Più basso di così. Prova adesso. Guarda in questo passaggio, 1, 2, se prova. Cacchio, sei sceso di brutto, però la radio è ottima. Adesso va bene Maria, è così. Mi almeno Marino ogni tanto viene qua a farci la visitina e ci fa piacere. Invece negli altri, sembra che odiano il canale 10 o Daniele. Devi lasci, peggio per loro. Ma a quando mai anche loro non stanno prendendo colpi come li prendo io, o c'hanno altre radio più selettive? No, non credo, perché abbiano tutti quanti uno vicino all'altro, e quando fanno uno per volta cosa che problemi hanno. Anche se dovessero prendere colpi, noi essendo lontani, magari loro sono vicinissimi e dunque riescono sempre a dialogare, perché non ce la puoi fare a superarli. Ecco qual è il problema. Avanti, vai! Che giù, guarda, stamattina ho beccato l'amico nostro, l'ho dato il tuo numero, abbiamo preso il caffè assieme, ha detto già ti chiamo, così scende, quando tu sei giù scende e andate a fare una passeggiata, avanti. Ok Mari, va bene, già, tanto fra un po' di giorni già lo incontrerò sicuramente, perché quando salgo a prendere la pensione lui è in zona, intanto lo so che non si allontana troppo dalla sua zona, già lo so. Come abbiamo fatto altre volte, là. Sì, è così. Poi abbiamo fatto 4 passi insieme, dunque un caffè e ciccia, tutto lì. Bene, avanti Daniele. Ma me lo dite al dirigente che golpe, se non fa nessuno lo mette tre. Claro, quando hai detto non c'è nessuno, ma poco fa c'è la gente al 23, qualche passaggio l'ha fatto. Io ho girato anche poco fa e non ho sentito nessuno. Ciao Marino. Buonasera Flavio, tutto ok. E così ero giù, io stamattina ho beccato, ho detto ma il numero non ce l'hai, e guarda, tra il trasloco, tutto quanto, ho perso tutto, mi ha detto. Allora gli ho dato il tuo numero, mi ha detto, e ti già ti chiama e così via, meglio così. Ok, avanti giù. Ok, sì, certo. Certo, Maria, hai fatto bene la video, già lo chiamo io, non ci sono problemi. Filippo, bene si è comportato davanti al prete o Claudio? No, era già passata davanti al cancello mio la processione, a Viatucci, e dall'altra parte la strada, capito? Quindi l'ho portato un pochino fuori al marciapiede dove piace passeggiare, e poi sono entrato dentro nella stradina da me. E stamattina ero nella tua zona, perché l'ho portato a lavare alle 10:30 da Monica in via Pascoli. Io mi sono trattenuto un'oretta da Walter chiacchierando, siamo andati a prendere i caffè lì vicino a te. Ho visto c'era la serranda a mezzo sollevata, però era chiusa, non c'eri tu. Sì, che c'era, cosa ho? Dentro io non lascio l'ufficio aperto. Se sono all'interno non posso lasciare l'ufficio, la porta dell'ufficio aperta, no, qua. Potevi chiamarmi, io ero lì. Che miseria, la giusto gli è una giornata, gli trovo a Giulio, non va. Invece tu eri dentro. Questo mi sono trattenuto lì parlando con Rubi, parlando con Walter, due chiacchiere, qui e là, e poi sono andato a ritirare Filippo e me ne sono andato. Sono andato a prendere i caffè lì, ho fatto come si chiama? Dove c'aveva la pizzeria prima, stavo chiacchierando anche con lui, ma ti chiama Tore. Sì, Tore, sì. Lo so, purtroppo ha chiuso lì e non ha più riaperto. Adesso non so cos'è che devo aprire. Ho sentito che qualcuno l'ha preso quel locale e lo so, non mi ricordo cos'è che devono fare. Comunque, saremo a vedere. Va bene, va bene. Anche la macelleria, quella che c'è di fronte a Torre, anche quella l'hanno venduta e se l'ha presa una di quelle società delle carni, buono ancora, e comunque. E i due operai che stavano lavorando lì vanno a lavorare lì di fronte alla Compec. Va bene, va bene. Ah, il combatte lì con Rubi. Avanti, Marino. Settore giù, sta facendo la... c'è il bar, come si chiama? C'è il camper per fare piazza, capito? L'ho beccato in come paese, l'ho beccato. E in mezzo casinato, ha chiuso poi. Già te lo spiego in verticale per il motivo che ha chiuso, dai. Ok, avanti Daniele. Gara, gara. Mi sono dimenticato cosa volevo dire, vabbè, non fa niente. Ok, dai, riprendi qua, che io mi sento due minuti. Ehi, Daniele, va bene, io lo so, ma lì il motivo perché ha chiuso. Già lo so, lascia perdere, già me l'ha detto. Sì, ma io lo incontro spesso, per fare segni quando c'era Dinamo, col camion bar, fa panini, di tutto fa, capito? Anche quando lì la discoteca di via Carlo Felice si mette, fa le piatte, insomma, sta andando avanti, mi ha detto, molto dura, però purtroppo è andata così, c'è un contenzioso anche abbastanza brutto, e non li voglio bene, il fatto è che gliel'hanno portata via, e vabbè, mi dispiace perché lo conosco da tanti anni, un grande lavoratore, poi ho avuto la sfortuna anche di perdere il figlio, quella disgrazia che era successa e non esibito più. Vabbè, avanti Giulio. Ok, è un po' tutto l'ha messo a terra, è un po' tutto che è successo. Purtroppo nella vita a volte è crudele veramente con le persone. È un peccato perché Tore aveva proprio una gran voglia di lavorare, perché era un grande lavoratore, veramente, questo sì. Ma forse non è stato molto aiutato nemmeno dai suoi, a parte la disgrazia eccetera, però cosa vuoi che ti dica qua? Quelle sono ingiustizie della vita, che purtroppo lui è sacrificato e poi invece è andata come è andata, pazienza dai, io mi auguro tutto il bene di questo mondo, ci mancherebbe altro, figurati. Va bene, dai, avanti Marino. Ok, riprendo, ma chiudo, mi stiamo chiamando giù. Ok, ciao giù, ben sentito, alla prossima. Ciao Claudio, ciao anche Daniele, dai. Claudio, riprendi e faccio pure per te che mi stiamo chiamando. Ok, avanti Claudio, ciao ciao. Ascolta, visto che l'altro giorno mi ha detto dovevi sentire a me, non lo sta facendo più il difetto? No, negativo, tutto a posto per il momento. Mi si è accorto di una cosa, vabbè, già te lo dico, che il Vox che non funziona, non... Vabbè, non mi interessa quello io, Gio, Claudio, non mi interessa. Non lo usavo mai, dai. Tutto l'altro è a posto, Claudio. Il Vox, se non lo attivi, se schiacci il pulsante da davanti e non lo attivi da dietro, non può mai funzionare. Evidentemente è chiuso dietro. Ok, io non l'ho controllato dietro, davanti solo ho controllato. Ok, dai. Vabbè, intanto non ho poco lo uso, non... anzi, non l'ho usato mai, sinceramente. Comunque va bene per il momento, dai. Tutto ok. Ok, ti ringrazio nuovamente, Claudio, riprendi e faccio quello che ci sentiamo. Ciao a tutti, saluto anche tu gli ascoltatori, dai Claudio. Ciao Marino, te l'ho detto, se hai problemi già sarebbe trovarmi. No, bisogna schiacciare il pulsante e si attiva da dietro. Le regolazioni si fanno da quei tre potenziometri che ci sono dietro, capito? Eccitamento del PTT, la ripetizione e il controllo dell'eco, sì, del Vox. Lascialo stare chiuso che non ti va nulla. L'importante è che la radio stia funzionando bene. Ciao Marino, un abbraccio, ci sentiamo, vai giù. Ok, ciao Marino, fatti sentire però, più spesso fatti sentire, la sera noi siamo sempre qua. Onoraci della tua presenza qua in questo canale, almeno scambiamo quattro chiacchiere che hanno un significato, oh Marino. Non voglio fare polemiche, però almeno qua qualche discorso interessante si fa, a differenza di, vabbè, comunque lasciamo perdere, non fate niente. E trascina anche Bacchigio da queste parti, che è una persona in gamba e dunque merita di entrare a fare parte di questo gruppo del canale 10. Ci sentiamo, ciao ciao di nuovo, alle prossime, avanti Daniele. Un attimo, Daniele, chiedo scusa, va bene. Io sai che fino adesso stavo facendo una cosa, Giulio. Non basta la mattina, io fino adesso stavo vedendo con mia moglie fuori, tagliando un po' di bungavilla, un po' di roba che era fuori all'esterno, si sta sfoggiando troppo, non voglio che faccio qualcuno a piedi come al solito e si faccia male, e poi mi tocca pagarla nuovo. Senti, già lo sai, in campagna c'è sempre da fare, poi Claudio sta iniziando e già lo sa anche lui. Ok, dai, di nuovo, scusa Giulio, avanti Daniele, ciao. Non si è spostato Daniele, vai giù. Ok, d'accordo Mario, ci sentiamo alle prossime, dai. Comunque, regola sempre come hai regolato questa volta con la radio, e dici bene, che esce con una radio abbastanza chiara, a differenza dell'altro giorno che avevi un pochino, un po' di coso, avevi di cattedrale e si capiva male. Già si capiva lo stesso, però non era come oggi già è bella la radio, va benissimo. Oggi la tua voce è quella proprio come quella che è verticale. Ci sentiamo, vediamo se è rientrato Daniele, sì, è andato a ossigenarsi o Claudio, è andato a ossigenarsi con un bizzone. Mamma mia, ti giretti, gli ho fatto una sistematina con la radio, tutta memorizzata, pulita, è messa in sesto, ho fatto un po' di regolazione che era tutta un poco butta mare, adesso già sta uscendo bene, faceva un difettuccio, era una saldatura fredda, l'abbiamo messa a posto. Va bene, Lucia, sì, no, Vittorio, mi dispiace tantissimo, tu immaginati quando ero via Pascoli, la moto del figlio la metteva in garage da me. Non ho mai voluto assolutamente niente, infatti ogni volta che andavo a prendere la pizza, le cose, non la andavo a pagare, ho detto non bevo più, capito? Avevamo e abbiamo ancora oggi un bellissimo rapporto, nonostante ci vediamo poco, ma prima ci vedevamo quasi tutti i giorni. E mi è dispiaciuto tantissimo quello che mi ha detto, perché una cosa che si poteva rimediare, come hai detto tu giustamente, non è stato aiutato e quindi sai, ci mettono poco a fare una mambassa, no? Quando c'hai un qualcosa che devi, la prima cosa che fanno si attaccano a quello che hai. Ed è successo così, non è riuscito a rimediare perché nessuno gli ha dato una mano. Purtroppo è andata così, sta lavorando, c'ha il camion bar, capito? Quindi insomma, sta lavoricchiando, ma è dura qua, è dura perché è dura, ci sono tante ore da fare, tanta preparazione, tanta voglia di spostarti, di camminare, io abituato lì, aprivo la mattina, mi facevo il pranzo, quindi ero a casa praticamente, in Oga, ore, chilometri e chilometri, e ridinasso sempre i bocchi. Sì, qua, beh certo, peccato, mi dispiace anche a me perché Tore è una persona che merita, perché ripeto è un gran lavoratore. E poi siamo sinceri, anche lui ha una famiglia da portare avanti, per cui è meglio che lavori, sono contento se riesce a risistemarsi di nuovo. Speriamo bene, cosa vuoi che ti dica? Purtroppo è andata così, diciamo che è stata una sfortuna, dai, in tutti i sensi. È stata una fortuna quando succedono queste cose, è come un cataclisma personale appunto praticamente, considerando un po' tutto, mettendo tutto insieme, sommando tutto quello che mi è successo, purtroppo è andata così, pazienza, dai, speriamo bene, io gli auguro tutto il bene di questo mondo, la carità, è tutto. E vorrei, siccome so benissimo che è anche un uomo molto orgoglioso, so benissimo che con grande fatica riuscirà anche a rimettersi in sesto, alla grande. Speriamo bene. Sì, certo subito, aspetta, sto scendendo, se ne ho, saluto gli amici e poi invece. Va bene, sì, è così, cosa vuoi che ti dica? Mi dispiace perché, ripeto, prima di tutto perché è una brava persona, anche la famiglia è una brava, non è niente a dire, nemmeno i ragazzi, niente, sia ben chiaro. Purtroppo è andata come è andata, tu lo sai quanto è, come è andata, e di conseguenza bisogna farsi una ragione. Ma pure, claro, sono soldi sia per scendere giù al cielo, ci sentiamo, dai. Ciao qua, a domani, vado a cenare. ci sentiamo, grazie per la chiacchierata, a domani, ciao, ascolto finale, chiudo. Ciao Giù, piena libertà, buona cena, buon tutto, saluti a casa, ci aggiorniamo domani, dai, io anch'io sarò quasi pronto e quindi vado, rimango in stand-by, sento Daniele, se no chiudo. Ciao Giù, a domani, grazie delle due chiacchiere, ciao ciao. Ciao, ciao qua, domani, ciao. Danielito, ci sei? Se no, sto andando a cenare anch'io. Dai, dai. Grande Rubroffetta, siete tutti a cena. Allora, dai, vi saluto tutti, anche qui che sono in ascolto. A più tardi, altrimenti a domani. Ciao, bye.